Abbiamo già 3 mesi fa chiesto al governo di fermare questo memorandum perché, come tutti hanno potuto constatare in questi anni, in questi ultimi mesi, quello che succede in Libia è un vero crimine contro l'umanità. Le persone vengono appunto uccise, torturate, stuprate, sottoposte a ricatti, chiamando le famiglie per farsi dare dei soldi per liberarle. Diciamo, c'è quello che succede sotto i nostri occhi ed è testimoniato non solo dai superstiti, da quelli che arrivano in Italia, ma anche dalle agenzie delle Nazioni Unite presenti, da giornalisti e da osservatori indipendenti. È un crimine contro l'umanità e questo memorandum lo sta di fatto sostenendo, sia perché ha fornito strumenti e risorse alle milizie che sono responsabili di questi crimini contro l'umanità, sia perché il memorandum non è stato scritto per occuparsi e per promuovere il processo di pace in Libia. Anzi, possiamo dire con certezza che il memorandum ha allontanato la pace, perché da quando è stato firmato la guerra i conflitti in Libia si sono accentuati, perché si è schierato con una parte delle milizie e dei contendenti, quindi ha alimentato il conflitto appunto schierandosi con una parte, e ha fornito ad una parte gli strumenti e a parte la questione motovedette, soldi, armi, formazione eccetera, c'è anche il tema di avere fornito un oggetto di ricatto internazionale e oltre che interno, che sono gli stranieri detenuti, perché gli stranieri detenuti proprio a seguito di quel memorandum diciamo hanno accentuato questo uso degli stranieri come strumento di ricatto e per sottrarlo questo strumento di guerra di fatto che sono gli stranieri detenuti utilizzati appunto dalle milizie che il governo dice di voler combattere, e bisogna chiudere, cancellare quel memorandum e occuparsi del processo di pace anziché occuparsi della campagna elettorale perpetua di questo paese. Perché voglio aggiungere questo altro elemento: quel memorandum nel 2017 da Minniti, dal governo Gentiloni, è stato firmato per dichiarazione dello stesso Minniti per sottrarre spazio alla destra leghista, e in realtà poi l'effetto è stato esattamente il contrario: è stato allargato lo spazio delle ragioni e dell'ideologia della destra leghista ed è stato, come dicevo prima, anche alimentato il conflitto. Adesso quella stagione, quegli errori pesanti commessi anche dal governo di centrosinistra, questo governo dovrebbe definitivamente cancellarli. Come possono fare i cittadini allora per fare pressione sul governo? Noi abbiamo lanciato un appello, l'ennesimo diciamo così, al governo perché si fermi questa macchina dell'orrore, della detenzione in Libia, dei respingimenti che vengono attuati dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica comandata dalla nostra Marina, e oggi abbiamo lanciato questo mail bombing sia rivolto sia alla Morgese, al ministro dell'interno, che a Di Maio, ministro degli affari esteri, che hanno entrambi responsabilità su questa vicenda che, come tutti ricorderanno, non è passato dal Parlamento, cioè il Parlamento non ha discusso di questo memorandum, ma è un memorandum che è stato siglato dall'allora ministro degli interni Minniti, diciamo con l'accordo del Consiglio dei Ministri. Pensiamo che i due ministri competenti debbano intervenire per bloccarlo, e se, come speriamo, migliaia di cittadini intaseranno le loro caselle di posta elettronica, forse capiranno che se questo governo vuole smettere di alimentare la retorica dell'invasione, la paura, la criminalizzazione degli stranieri e cominciare a occuparsi dei problemi seri, deve chiudere quella stagione appunto cominciando dalla cancellazione di quel memorandum. A proposito di cancellazione o di modifiche, a che punto siamo invece con le modifiche annunciate sui decreti Salvini, sulle leggi di Salvini? Ma non ne sappiamo molto, sappiamo che il governo sta lavorando a un decreto legge, quali saranno i contenuti di questo decreto legge al momento non lo sappiamo. Abbiamo chiesto già da mesi al ministro Lamorgese, come tavolo asilo, di poterla incontrare per esporre le nostre proposte e anche le ragioni che stanno dietro queste proposte, e ancora non abbiamo ricevuto purtroppo una risposta. Speriamo che nei prossimi giorni, dopo la tornata elettorale delle regionali, ci sia una disponibilità ad aprire questo confronto e andare velocemente verso una, noi chiediamo la cancellazione anche qui dei decreti sicurezza, ma perlomeno una modifica delle peggiori strutture che quei decreti hanno introdotto, che qui voglio ricordarla ancora una volta, sono stati modificate regole, leggi, semplicemente per ragioni elettorali, non certo perché il paese ne sentiva bisogno o ce ne fosse bisogno, diciamo, per migliorare la gestione dei flussi migratori e della presenza dei rifugiati in Italia. È stato fatto solo per gli interessi della Lega e dell'ex ministro della propaganda, e oggi, siccome appunto quella stagione andrebbe chiusa, bisognerebbe cancellarli o modificarli in maniera sostanziale. Non servono piccoli ritocchi.